Letture di Radio 24. Una tavoletta risalente al 700 a.C. svelerebbe il mistero della scomparsa della città di Sodoma e quella di Gomorra. Su di essa si sarebbe schiantato un asteroide, potente come 4 bombe atomiche. È stato un asteroide a distruggere Sodoma e Gomorra, o almeno a dare origine alla storia biblica che riguarda le due città punite per i comportamenti sessuali, piuttosto disinibiti degli abitanti. Come è noto, alcuni di loro fecero minacciose profferte agli angeli del Signore, mandati ad ammonirli, e per passare a via di fatto fracassarono l'ingresso della casa di Lot, l'unico giusto che aveva accolto i messaggeri. L'impresa, come è ovvio, non riuscì, e la punizione celeste si abbatté come un maglio, spianando col fuoco non solo le due città, ma anche altri 3 centri che assieme ad esse costituivano la Pentapoli. Non sapremo mai se questa sia la storia vera, ma ora la spaventosa scena è stata estratta dal tempo immemoriale del racconto biblico e ha una data precisa nel nostro calendario, il 29 giugno 3123 a.C., poco prima dell'alba. L'hanno calcolata 2 scienziati inglesi, Alan Bond, membro di un centro ricerche di Abingdon, e Mark Emsel, dell'Università di Bristol, partendo da una tavoletta sumera conservata al British Museum. I risultati delle loro ricerche sono stati pubblicati nel libro A Sumerian Observation of the Cephels Impact Event, un'osservazione sumera dell'impatto di Cephels. Che sarà mai Cephels? I geologi lo sanno bene. È una località dell'Austria dove è noto che un'intera montagna venne spianata dall'impatto di un asteroide, evento apocalittico e non tramandato. Cephels ha però uno stretto rapporto con Sodoma e Gomorra. Proprio decrittando la tavoletta, che è una copia risalente al 700 a.C., della descrizione del cielo fatta da un astronomo sumero, i due scienziati hanno ricostruito i cieli del mondo come li aveva visti il loro antico predecessore, nella notte fatale, quando assistette a qualcosa di immenso. Un grande oggetto luminoso che attraversava l'atmosfera a folle velocità da est a ovest. Andava a Cephels e stava per innescare un apocalittico biliardo. Secondo questa ricostruzione, che pure non è accettata in blocco dalla comunità scientifica, l'asteroide si disintegrò sull'Austria e una palla di fuoco da 800 milioni di tonnellate si abbatté sulla montagna, distruggendola. L'enorme potenza liberata fece rimbalzare un pennacchio di fuoco che risalì a 900 km di altezza e rifece il cammino al contrario, rientrando nell'atmosfera sull'Egitto e scaricando sulla Pentapoli qualcosa come l'equivalente di 4 bombe atomiche ad altissimo potenziale. Così finirono Sodoma e Gomorra e iniziò il mito dei peccatori sfrontati. Quanto agli abitanti della zona di Cephels, non se ne sa nulla. Forse non ce n'erano, forse erano pochissimi. In tal caso sarebbero, nella nostra lunga storia, le prime vittime di un danno collaterale, proprio come le figlie di Lot, offerte agli assalitori pur di salvare gli angeli. Per loro fortuna, i sodomiti non erano interessati. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Sodoma distrutta da un asteroide, di Mario Baudino, dalla stampa di lunedì 28 marzo. Letture di Radio 24. Un tempo ci fu Layer con i suoi 2 giornali al dì. Poi arrivò la Rai e i canali All News. Forse il bombardamento di notizie a volte pare eccessivo, ma come osserva Sergio Zavoli, questo bombardamento è ciò che resta della democrazia. Me li ricordo. Erano 2 i giornali radio che davano conto di ciò che si doveva sapere nell'arco di una giornata, alle 13 e alle 20. Passava un tempo sterminato tra ciò che continuava ad accadere nel mondo, mentre la radio trasmetteva canzoni, giochi a premio, anche allora, botte e risposta, i 3 moschettieri, le orchestre Angelini e Barzizza, rubriche di varia umanità, e molte ore dedicate all'agricoltore, ai militari di leva, agli ammalati, si chiamava Sorella Radio. L'ora del dilettante, tra le più seguite, le radiocronache di Nicolò Carosio, i grandi concerti in Martini Rossi, i radiodrammi, e via così. Solo per la conquista di Adua o di Macallè, non parliamo di Addis Abeba, si interruppero i programmi. Ma era l'epica del regime e bisognava alimentare il mito dell'impero. Poi la Seconda Guerra Mondiale, quando la stazione più ascoltata diventerà Radio Londra, trasmessa da un bunker della BBC, con le notizie sui fronti di guerra e la grande e indimenticabile orchestra di Glenn Miller, che diffondeva ottimismo nonostante le V2 di Hitler. Giuliano Ferrara, buon psicologo, con una metafora molto ardita ha ripreso il nome e la sigla sonora di quel memorabile appuntamento. Segreto, perché ascoltare Radio Londra era un reato. La pace ci inonderà di nuove voci. L'EIR si chiamerà RAI. Le reti diventeranno due. Poi se ne aggiungerà una più culturale, chiamata Terzo Programma. Si affermeranno le rubriche dei tempi nuovi. Oggi al Parlamento, seguendo la crisi, il Convegno dei Cinque. Un'aria sconosciuta, non solo politica, ma anche civica e, va da sé, ideale. Luigi Einaudi aveva pronto lo slogan per quel primo soffio di libertà radiotrasmessa. Primum informare, cui dopo qualche tempo si aggiungeranno rubriche oggi passate agli archivi, anche se molto evocate e addirittura rimpiante, come Tribuna Politica, la famosa palestra di una dialettica aperta e democraticamente ben governata. Leaders e giornalisti, faccia a faccia con domande brucianti e risposte quasi sempre adeguate. Aggiornati a ogni ora dalle notizie, ci sentimmo al centro del mondo. Nascerà una radio moderna, con Radio Sera, voci dal mondo. Raccontate la vostra storia, il teatro dell'usignolo, l'approdo, i documentari, le inchieste, si affermerà una grande azienda e un canone dovrebbe giustificare l'incarico di servizio pubblico, due parole nuove, sempre più esigenti con il passare dall'iniziale latifondo democristiano alla lottizzazione del centro-sinistra e infine alla nascita della concorrenza, cioè l'ingresso nel mercato. E oggi leggo di un cittadino che protesta per il numero esorbitante di notizie che i mass media riversano nelle nostre case, assediandoci con una tempesta di cattive nuove. Forse augurandosi, ma non lo dice, di riceverne poche e buone, come si usa nei paesi a regime dittatoriale, dove ci si dedica giorno e notte, come è noto, a non turbare i cittadini. Ma una ricorrente ondata di qualunquismo, mascherata di bonomia, buonsenso e una buona dose di dabbenaggine serpeggia qua e là da un bel numero d'anni. E poco importa che i nostri giornali abbiano nel frattempo raggiunto una maturità e una capacità di approfondimento che corrispondono, più che non accada nell'informazione elettronica, influenzata dal cosiddetto più o meno palese e legittimo editore di riferimento, al dovere di informare secondo le regole della responsabilità e del pluralismo. Per fortuna, accanto a chi proclama l'imbarbarimento dell'informazione, cronaca nera o bianca, nessuno ci fa più caso, la parte di gran lunga preponderante della cittadinanza si domanda se non ci si debba porre il problema di come far conoscere i comportamenti pubblici e privati di un paese che spesso sembra riflesso in uno specchio deformante, ma senza il quale lasceremmo che la trasgressione avanzi nella più prosperosa e scandalosa impunità. Altra cosa è stabilire le diverse dismisure usate da chi trasforma in spettacolo, non di rado a puntate, l'intollerabile risorsa del dolorismo informativo e che molte sofferenze, per un verso, e molte miserie, per l'altro, vengano enfatizzate dal medium elettronico. Tutto ciò non è una buona ragione per rimpiangere colpevoli omissioni. Che poi, accumulandosi un decadimento dei costumi, più evidente nel progredire delle criminalità organizzate, nei paradisi fiscali, negli scandali gravi di corruzione, nelle violenze esercitate sulle vittime più indifese, le donne, specie le più giovani, e via così, possa crescere una distorta mentalità psicologica, esistenziale e persino sociale, è materia che esorbita da un articolo di giornale. Sebbene uno di noi, Indro Montanelli, quando già eravamo immersi nella trasgressione, mi avesse detto in una intervista tra le ultime della sua gloriosa carriera queste parole: «È facilissimo dir male del giornalismo, e lo fanno anche i giornalisti. Ogni tanto, devo dirlo, do il mio contributo. A volte mi vergogno di appartenere a una corporazione che in tante cose andate male e tuttora malandate ha la sua parte di responsabilità. Spesso, infatti, tradiamo quella che non chiamerò una missione, perché la decenza mi vieta di pronunciare parole così virtuose, ma che è pur sempre una professione fondata sul sentire civile e la consapevolezza morale. Però, devo dirlo, persino quel po' di democrazia che pratichiamo lo si deve, dopo tutto, ai giornalisti. Io, lo confesso, non l'avevo mai creduto tanto come in questi ultimi tempi. Forse Indro, che non era incline agli autocompiacimenti, ma difendeva la reputazione del mestiere, voleva togliersi una spina. Anche con chi si lagna di ricevere un eccesso di informazione, volendoci screditare addirittura con l'argomento dello zelo. Ma la bussola rimane quella. Primum, informare. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Bombardati dalle notizie? È vero, ma è ciò che resta della democrazia. A firma di Sergio Zavoli, da Quotidiano Nazionale Il Giorno, di sabato 26 marzo.